parola a Paolo Arnolfo, operatore frutto del vivaio, e naturalmente, siccome bravo, proviene da Cuneo. E anche Juventino. E anche Juventino. No, non rinnego né la provenienza né la fede. Dunque, con grande emozione che mi rivolgo a voi in questo congresso, per me è naturalmente il primo congresso, e ho pensato di parlarvi naturalmente del tema che più mi sta a cuore, la negoziazione sociale e territoriale. In un primo momento avevo pensato di parlare dell'importanza di questa attività, ma mi rendo ora conto che è superfluo, in quanto se ne è parlato ampiamente nella relazione della segretaria generale Rosina Partelli e in molti dei vostri interventi. Molto bene, vuol dire che questa attività sta a cuore. E mi limito quindi su questo a dire che è il nostro spazio di negoziazione. La CISL è il sindacato della contrattazione e all'interno della CISL la FNP trova sul territorio il suo spazio di negoziazione. Il territorio è un po' il nostro luogo di lavoro e quindi è necessario impegnarsi sempre di più in questa attività. Parliamo allora un po' delle difficoltà che, come chi di voi è già impegnato su questo fronte sa, non mancano. Abbiamo parlato anche in questi due giorni del mondo che cambia in fretta. Non è una scusa per farci cogliere impreparati o per cedere alle paure. Un sindacato naturalmente non si arrende davanti a un mondo che cambia in fretta e capisce che questo vuol dire che ci sono nuovi bisogni da analizzare, che non ci devono sconfortare, ma che dobbiamo seguire con attenzione. Altro punto critico che è evidenziato da molti di voi è la situazione politica incerta. Prima sembrava soltanto a livello nazionale, poi certe nuove ventate di novità, magari non sempre condivisibile, sono arrivate anche direttamente nei comuni, con forze politiche nuove presso le quali è necessario ridefinire la nostra rappresentanza. Non bastano più le conoscenze personali, anche perché questa nuova classe dirigente è nuova, per definizione è difficile sfruttare le conoscenze personali. Quindi dobbiamo riconquistarci i tavoli che magari con tanta fatica avevamo conquistato negli anni precedenti. Ora si ricomincia da capo. Ancora una volta ci sono le difficoltà, va bene, diciamocele, ma non facciamoci spaventare. Le difficoltà le abbiamo, le avete sempre superate, e supereremo anche queste. Sicuramente questo nuovo quadro evidenzia delle necessità. Necessità di nuove competenze e conoscenze per un'attività che non può più essere improvvisata, ma deve crescere appunto seguendo diverse linee guide. Io ne ho individuate quattro. Servono competenze tecniche, cioè dobbiamo saper leggere il bilancio di un comune, ma dobbiamo anche saper reperire le informazioni sulle varie tematiche di nostro interesse. Servono poi competenze relazionali, dobbiamo essere capaci a gestire delegazioni sempre più complesse, dove spesso non ci presentiamo più soltanto come CGIL, CISL, UIL e federazioni dei pensionati, ma anche con altre associazioni, il terzo settore, diciamo, altri attori da coinvolgere e da saper gestire. Servono competenze negoziali, naturalmente, e non ultime, servono competenze comunicative, perché una volta raggiunto un risultato dobbiamo saperlo comunicare, altrimenti, come spesso accade, sono altri a intestarsi il merito del nostro lavoro. E questo dobbiamo iniziare ad arginarlo con una comunicazione che sappia mettere insieme l'antico, il moderno e il futuro. Quindi non solo i social network, che sono una cosa stupenda, ma non sempre i nostri iscritti li utilizzano, ma anche una comunicazione tradizionale, perché no, esplorare nuove strade per comunicare i nostri risultati. La strada che la FNP Piemonte ha scelto è quella della formazione per affinare tutte queste competenze. ce n'è un'altra altrettanto importante, che è quella dell'esperienza, ma questa si matura sul campo e sicuramente non possiamo insegnarla, e men che mai posso insegnarla io, anche se pian piano nel mio anno e mezzo insieme a voi ho iniziato a capire certi meccanismi e spero di capirli sempre meglio per saperli tramandare. Il percorso che la FNP Piemonte ha scelto è diverso da un corso tradizionale, se ne hanno fatti in passato dando risultati anche buoni, ma si evidenziava spesso il problema delle differenti conoscenze di base, cioè si arrivava a questo percorso qualcuno con già delle conoscenze molto avanzate, altri più in difficoltà. Abbiamo allora pensato a un percorso personalizzato e flessibile, gestito sulle esigenze dei vari partecipanti e, cosa non secondaria, fatto direttamente sul territorio per venire incontro ai corsisti. Due dei quattro territori piemontesi sono già stati coinvolti nell'ultimo anno e naturalmente con loro il percorso non è concluso, si sono conclusi certamente il ciclo di incontri pianificato, ma ora è necessario andare avanti, trasformare questa formazione in un affiancamento, perché continueremo ad affinare le conoscenze, le competenze che quando le abbiamo acquisite sono già vecchie, dobbiamo aggiornarci. E soprattutto costruiremo una rete, perché non si fa nulla da soli, bisogna costruire una rete di negoziatori che sappia lavorare insieme, condividere i successi e gli insuccessi per crescere insieme. E un altro fronte che vorremmo aprire prima o poi è quello del sociosanitario, la contrattazione sociosanitaria. Ci invitava prima Audasso e speriamo di saper rispondere anche a questa esigenza. Con i due territori su cui finora non abbiamo lavorato, rinnoviamo la nostra disponibilità. Chi mi ha preceduto immediatamente su questo palco, cioè Pierangela Prevosti, ha già accennato al fatto che partiremo presto anche nel Piemonte orientale con questo percorso. Parliamo, negli ultimi minuti rimasti, degli strumenti. In cartellina trovate un piccolo report che abbiamo preparato per voi, che cerca di darvi un po' un'idea della potenza degli strumenti che la Confederazione ha pensato per noi nell'attività di negoziazione. L'osservatorio sociale, che racchiude tutti gli accordi, e che cosa ci dice in Piemonte? Una cosa che già sappiamo, ma ripetiamocela. La negoziazione sociale non serve solo agli anziani. La FNP si impegna fortemente, ma non lo fa solo per i suoi iscritti, ma per tutta la popolazione. In Piemonte andiamo molto bene su fiscalità e tariffe, spesso siamo incisivi sulla fiscalità locale, possiamo migliorare su tutto il versante dei servizi, istituire nuovi servizi, perfezionare quelli che ci sono. AIDA CISL è un potente strumento che ci permette di leggere i bilanci comunali, competenza difficilissima da acquisire, e ci dice in Piemonte che ci sono molte difficoltà, che i comuni non bluffano quando si dicono che le risorse si sono ridotte e hanno dovuto subire dei tagli, ma ci dice anche che ci sono degli spiragli ed è su quegli spiragli che noi dobbiamo saper agire. Chiudo citando la formazione, non solo finora ho parlato di quella che ho provato a fare con voi, e vorrei spendere una parola anche sulla formazione che mi è stata elargita in questo anno e mezzo. Ho capito che per la FNP la formazione è un tema molto serio e trattato con molta competenza e professionalità. In questo momento sto partecipando a un corso per i giovani inseriti nelle FNP ed è un'esperienza molto utile, perché sto capendo che in tutta Italia molti giovani, grazie al progetto Giovani che ci ha portati all'assunzione nelle FNP, stanno mettendo le loro competenze al servizio dei pensionati. Non è una cosa da poco, vuol dire che per molti giovani c'è stato uno spazio di realizzazione personale e professionale di cui non possiamo che essere grati, e cercheremo di insistere in questa intergenerazionalità che può dare grandi frutti. Un'ultimissima parola e un augurio, anzi due auguri. Un augurio a chi di voi fa la contrattazione sociale. Consolidatela, credeteci, scoprite e aprite nuove strade, crescete, sbagliate, perché è dagli sbagli che si impara, rialzatevi e raggiungete i vostri obiettivi. Chi di voi non fa contrattazione sociale, c'è un augurio anche per voi, appassionatevi, capite i risultati che questa attività può dare, perché è una delle splendide risposte che si possono dare a quella domanda che spesso ci sentiamo dire: ma il sindacato a cosa serve? Serve anche a questo, a contrattare nei comuni, a contrattare sul versante sociosanitario. Grazie.